Italia in controluce. Nuova puntata di Controluce delle 13.30, il venerdì, come sapete, è di scuola che parliamo. Oggi in particolare parleremo di una novità molto importante: gli istituti tecnici superiori, presentati qualche giorno fa e che saranno attivi già da settembre. Scuola in controluce. Chi esce dalle superiori ha da quest'anno una possibilità in più, dunque. Non c'è infatti solo la scelta fra lavoro, ammesso che lo si trovi, ed università. Nasceranno dal prossimo anno scolastico anche gli istituti tecnici superiori, 58 istituti di istruzione post-secondaria a cui potranno accedere i ragazzi dopo la maturità e che saranno caratterizzati da uno strettissimo legame con le aziende del territorio in cui saranno inseriti. Una specie di super tecnici, come li ha definiti lo stesso ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini, che formeranno giovani specializzati nel campo dell'efficienza energetica, della mobilità, della logistica, trasporti, alimentari, nuove tecnologie, manifatturiero, insomma il made in Italy. Linfa importantissima per le aziende che da anni lamentano l'assenza di figure di questo tipo, figure che le aziende sarebbero davvero molto pronte ad assumere. Insomma, quei 110.000 posti di lavoro che secondo Unioncamere rimarrebbero scoperti nel settore delle tecnologie. L'impresa può dare alla scuola i valori di cui i giovani hanno assolutamente bisogno, nella speranza di ritrovarsi giovani che possano poi assicurare la continuità della nostra economia e soprattutto nel manifatturiero, ha commentato Gianfelice Rocca, vicepresidente per l'education di Confindustria, che ha presentato il progetto qualche giorno fa appunto con la Gelmini. Le 58 nuove scuole dureranno 2 anni e avranno come dotazione iniziale 500.000 euro per un investimento totale di 29 milioni di euro, che hanno superato le forche caudine del ministro del Tesoro Tremonti. Più si devono aggiungere le risorse che arriveranno da 58 fondazioni. Gli ITS saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed in particolare ce ne saranno 7 in Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia, 6 in Veneto, 5 in Sicilia e si va dall'aeronautica a Torino e Gallarate, ai segnali per l'alta velocità a Caserta, materiali compositi per gli aerei a Brindisi e moda a Padova. Allora, cerchiamo di capire meglio come funzioneranno gli ITS. Andiamo dunque a Vicenza, dove nasce l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico. Il direttore Giorgio Spanavello. Le nuove scuole sono strutturate come fondazioni e quindi hanno una struttura che è formalmente autonoma da quelle che sono le scuole statali. Pur essendo queste fondazioni legate al Ministero, dal titolo di studio che viene rilasciato da questi ITS, che è un titolo di studio statale al quinto livello EQF, che è la certificazione europea, diploma di tipo europeo. Si occuperanno di formazione post-diploma, cioè destinati a studenti che hanno terminato un ciclo di studi superiore e quindi andranno a fare una formazione di tipo professionalizzante in stretto rapporto con le aziende, in cui questi diplomati si specializzeranno in alcuni settori che sono ben determinati, cioè l'efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per beni e attività culturali, tecnologie dell'informatica e della comunicazione. All'interno di questi settori i vari ITS formeranno dei cosiddetti super periti o super tecnici. Ecco. Ci saranno anche periodi di tirocinio? Assolutamente sì, cioè tutta questa struttura è stata configurata in stretto rapporto con l'azienda, quindi le aziende non solo partecipano ospitando i ragazzi in tirocinio, in stage, ma fanno parte proprio dell'organizzazione e hanno dato un grosso contributo nella progettazione dei corsi. Sono corsi biennali in 4 semestri e quindi il tirocinio è inserito in ognuno dei semestri in maniera molto organica. Le aziende presso cui faranno i tirocini assumeranno questi studenti? È previsto un'assunzione o anche degli incentivi per questi? Allora, è chiaro che non c'è un obbligo assoluto delle aziende di assumere. Però un'azienda che investe per 2 anni sulla formazione di un ragazzo è chiaro che avrà più che altro il problema di non lasciarselo scappare più che quello di dargli un posto di lavoro, nel senso che evidentemente l'interesse dell'azienda sarà quello di inserire il candidato, inserire lo studente tra i propri ranghi. Ci saranno prove selettive e ci sarà una retta? Ci saranno prove selettive, sicuramente sì, perché essendo il numero chiuso dobbiamo fare una selezione. E anche sul discorso della retta, l'idea generale è quella di una retta di partecipazione, però con degli incentivi e delle borse di studio per gli studenti più meritevoli. Qual è l'esigenza alla base della nascita di questi istituti? L'esigenza alla base della nascita di questi istituti è il fatto che la scuola e l'università hanno avuto delle difficoltà nella preparazione di tipo professionalizzante dei ragazzi, ossia quello che si vuole fare è quello di limare lo scalino che c'è nel passaggio tra il mondo della scuola, anche se scuola tecnica, anche se università tecnica, e il mondo del lavoro. Il direttore dell'Istituto Tecnico Superiore di Vicenza è dunque un insegnante, l'abbiamo appena sentito. Il presidente è invece l'imprenditore Luigi Rossi Luciani, che è stato anche presidente di Confindustria Veneto. Ci saranno diversi modi di investire, ci saranno le aziende che vogliono diventare fondatori, e rientrare nei fondatori vuol dire dare un certo tipo di contributo, oppure partecipanti a un contributo più basso, oppure le aziende possono contribuire con i loro tecnici e con i loro docenti alla formazione degli studenti e ospitando appunto degli stage di un certo tipo. Quindi la cosa è variegata, monetizzarlo è un po' difficile, ecco, questo voglio dire, però contiamo molto nella partecipazione delle imprese, perché noi contiamo di formare dei tecnici un po' diversi da quanto erano solo quelli usciti dagli istituti tecnici o comunque dalle scuole superiori. Perché un'azienda dovrebbe investire nella formazione quando in teoria potrebbe andare sul mercato del lavoro e assumere persone già formate? Beh, questo è un modo molto fordista e taylorista di interpretare proprio quello che rende il tessuto imprenditoriale italiano, lo rende debole, lo rende poco efficiente. Voglio dire, l'organizzazione è uno dei punti su cui lavorare, e all'interno dell'organizzazione il mercato interno del lavoro, quindi continuare a formare i propri uomini e vedere crescere quelli che hanno professionalità invece che stapparli al mercato senza averne poi la certezza della omogeneicità delle culture, dei comportamenti, eccetera eccetera. La cultura all'interno dell'azienda deve essere unica, no? Da questo punto di vista ritengo che sia molto più interessante investire sui propri uomini, dando a loro una capacità di essere multifunzionali, di interpretare una cultura organizzativa un po' diversa da quella fordista. Insomma, l'organizzazione, oltre all'informatica e all'inglese, sono alla base delle cose che vogliamo fare in questo biennio. Perché spesso le aziende e le scuole non si parlano? Deriva dalla rigidità della scuola, con dei regolamenti che sono fatti a livello centrale e che poi sono esportati perifericamente e che lasciano pochi spazi alle interpretazioni, mentre questa scuola è nata per essere flessibile e quindi permetterà di avere un dialogo molto più facilmente. Abbiamo sentito il caso di Vicenza, ma gli istituti tecnici superiori partiranno, almeno dovrebbero partire, anche al sud. Lucia Scattarelli è la presidente dell'ITS Cuccovillo di Bari, sempre nel settore della meccatronica. Al sud il rischio però è che i ragazzi vengano formati per poi scapparsene al nord, dove c'è qualche speranza in più di trovare un lavoro. Dipende, se i ragazzi vanno a fare gli stage al nord ci sono buone possibilità che rimangano al nord. Noi ci auguriamo di poter in qualche maniera coinvolgere aziende del sud, aziende serie del sud o comunque che stanno al sud, e quindi in qualche maniera invece capiscano e investano in questo, non tanto economicamente, perché effettivamente adesso non siamo nelle condizioni di poter chiedere alle aziende di metterci dentro dei soldi, anche se qualcuno l'ha fatto, devo dire, e lo ringrazio per averlo fatto, però è importante che invece investano, ed è anche questo un investimento economico, investono nelle risorse, accogliendo questi ragazzi e seguendoli e dando loro la possibilità di acquisire delle vere e proprie competenze, e che le stesse aziende, una volta che questo ragazzo le ha acquisite queste competenze, dicono: beh, quasi quasi questo ragazzo lo assumo. Al sud c'è più difficoltà a trovare aziende che possono diventare partner? Certamente ovviamente non è facilissimo trovarle, perché bisogna che acquisiscano questa mentalità. Ci sono delle multinazionali dove chiedere 5.000 euro è quasi uno scherzo, però ci sono anche delle aziende piccole dove tirare fuori 500 euro non è cosa da poco. Però il discorso è, l'importante è la serietà dell'azienda che entra nel partenariato, l'azienda che nel momento in cui dice sì d'accordo, io do la disponibilità al posto stage, non la dà per fargli fare le fotocopie, ma gliela dà perché in realtà vuole seguirlo questo ragazzo e gli vuole far acquisire le competenze. Quindi se questo ragazzo effettivamente le ha queste competenze, certo, se le può spendere. Io mi auguro che non se le spendano tutte al nord. Potrebbe essere nel suo piccolo questo progetto anche un volano di sviluppo per il sud? Vorrei proprio che accada questo, che ci sia un volano, che finalmente questi ragazzi, ecco, questo connubio ragazzi e imprese, se è fatto bene, se è vincente, come noi ci auguriamo che sia vincente, rappresenti proprio l'anello mancante, cioè quello che serve per dare finalmente una smossa, ecco. Ringrazio Romolo Napolitano che ha realizzato le interviste che avete appena ascoltato. Scuola in Controluce torna venerdì prossimo, come sempre, alle 13.30. Alle 6.30 invece di lunedì, la prossima edizione di Italia in Controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.